America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero. Sono alla capitale americana perché c'è stato ieri l'incontro del G8. Ho seguito questi incontri preparatori del G8 di capo di Stato e di Governo che si terrà quest'anno appunto in America a Camp David, ospite Barack Obama. Passi in avanti. Beh, devo dire, dal nostro punto di vista c'è stato un passo in avanti piuttosto importante sul fronte dell'interpretazione giuridica dei principi che regolano il controllo, la sovranità nelle acque internazionali. Il nostro governo insiste che la sovranità che riguarda la nave è nostra, perché la nave era in acque appunto internazionali ed è un principio condiviso. Ebbene, il G8 ieri nel suo comunicato ha riaffermato questo principio, rafforzando la mano del nostro governo, del ministro degli esteri, la Farnesina, che sta cercando di negoziare appunto un compromesso con il governo indiano. Non vorrei soffermarmi troppo sulla politica, il venerdì lo voglio dedicare in genere alla nostra pagina culturale, per cui parleremo anche di questo, ma intanto con me ai microfoni di America 24 il ministro degli esteri italiano Giulio Terzi, al quale chiedo un commento sulla riaffermazione del G8 di questo importante principio che regola la giurisdizione sulle acque internazionali. Buongiorno Ministro. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a lei Dottor Platero, è veramente un'occasione molto importante quella di poterci rincontrare al termine di una sessione significativa del G8. Uno dei primissimi temi trattati in apertura del G8 è stato proprio quello della sicurezza marittima, della lotta alla pirateria e della lotta al terrorismo e criminalità organizzata, anche e soprattutto per quello che sta avvenendo nel processo che sta per essere instaurato nei confronti dei nostri fucilieri di marina nello stato indiano del Kerala. Ora, io ho insistito molto su questo principio di giurisdizione esclusiva, in primo luogo nei confronti di appartenenti alle forze armate, nei confronti dei quali esiste soltanto una giurisdizione da parte dello Stato nazionale che li invia. In secondo luogo, giurisdizione esclusiva sulle navi battenti bandiera dello Stato di appartenenza in alto mare. Questo principio non soltanto nella discussione è stato apprezzato e riconosciuto da tutti i partecipanti, ma è stato inserito anche nel comunicato conclusivo dei lavori con una ben precisa definizione e richiamo all'aspetto legale. Grazie per il resoconto politico, ma vorrei aprire un'altra pagina. Noi il venerdì in genere apriamo una pagina culturale, che spesso ha anche a che fare di rapporti con l'America. Ecco, lei l'America la conosce a fondo. Intanto, qual è la prima sensazione rientrando in America, dove lei è stato in varie posizioni, in varie missioni diverse? Tornare in America è sempre un'emozione forte, ancora di più da quando è arricchita da un contesto, da giornate, da ritrovare degli amici e da vedere lo splendore di questa città in fiore in questo momento. Ma non sono molto d'accordo sul fatto di questa mia conoscenza dell'America maggiore di altre personalità che mi hanno preceduto. Ne potrei ricordare alcune che hanno fatto i loro studi, avuto esperienze continue nel mondo accademico e politico di questo straordinario paese, di questa infinita realtà culturale e scientifica che sono gli Stati Uniti, un paese così amico che quasi riesce difficile a capirne, differenziarne gli aspetti sotto molti profili, soprattutto quando si tratta di interessi comuni, di sicurezza internazionale e di visione di politica estera. Ma credo che sia un'occasione notevole per poter discutere qui con l'ambasciatore Bisognero e con gli altri diplomatici di questa ambasciata l'impostazione di fondo che si intende dare all'anno della cultura italiana nel 2013 negli Stati Uniti. La politica culturale entra in pieno e con grande vigore fra gli obiettivi prioritari dell'azione di politica estera che sta facendo il governo Monti. E quindi c'è nel portare avanti questo programma ambizioso di un anno della cultura italiana nel 2013 negli Stati Uniti, vi è appunto il riferimento a una filiera fondamentale di politica estera, ma anche a un impegno molto specifico del governo di valorizzare l'apporto intellettuale degli italiani e del nostro paese non soltanto alle tradizioni culturali del passato, ma anche alle prospettive straordinarie di innovazione, di tecnologia, di ricerca che noi vediamo per il futuro. Ministro, lei quando era ambasciatore, quando è stato ambasciatore qui, ha presenziato importanti eventi culturali, per esempio i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ecco, l'esperienza dei 150 anni è stato un po' un rodaggio per una sfida ancora più ambiziosa, quella dell'anno della cultura, il 2013. Ecco, ne parla qua a Washington, può darci qualche anticipazione su cosa significherà quest'anno della cultura? Ma sì, certo, la dinamica del 150esimo è stata un'esperienza e un punto di partenza, ma quello che credo si voglia sottolineare nel 2013 è qualcosa di diverso, cioè vogliamo far leva sull'esperienza del passato appunto per guardare agli apporti che il nostro paese può dare. Faccio un esempio: fra pochi giorni avremo a Roma un importante convegno con la partecipazione di molte voci italiane nella ricerca nel mondo. Naturalmente ci sarà una rappresentanza dagli Stati Uniti, proprio perché lo scopo è quello di aggregare ancora di più coloro che si fanno fautori di reti informatiche, di associazioni, di organizzazioni che vogliono creare dei punti d'incontro fra scienziati e collegarli meglio alle amministrazioni, al governo italiano, alla realtà italiana, stabilire una continuità d'azione. È in questo senso che io vedo anche la programmazione della cultura italiana negli Stati Uniti nel 2013. Ecco, un'ultima cosa. Ieri è stato l'ultimo giorno di programmazione dei programmi italiani RAI in America, da oggi non ci sono più. Ecco, anche quella è cultura. È indubbiamente un problema da risolvere, siamo fortemente impegnati a superarlo. Ci deve essere una voce della RAI dedicata all'estero, non soltanto per l'informazione italiana verso l'estero, ma anche per l'informazione estero su estero. Gli italiani nel mondo devono poter sapere tra di loro, attraverso un veicolo, un canale italiano, le cose di eccellenza che avvengono e comunque anche la vita delle loro comunità nella dimensione più importante. Quindi io sono impegnato a ritrovare una piattaforma, ne ho discusso ripetutamente con la dirigenza della RAI ed è un discorso aperto, abbiamo stabilito un tavolo di lavoro fra Farnesina e RAI e mi auguro che ci possano essere dei risultati. Naturalmente questo è un terreno che si è reso molto accidentato a causa delle costrizioni finanziarie alle quali la pubblica amministrazione e di conseguenza anche un ente come la RAI, che dipende da finanziamenti pubblici, sono in corsi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di cultura italiana in America, e allora mi sembra opportuno proporvi un classico d'altri tempi di un grande cantante italo-americano, di Frank Sinatra, Forget Domani. Drum, let's take the minutes as they speed away and hope it's true what people say when you're in love, tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow, let's forget about tomorrow, let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow, let's forget about tomorrow, let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.